ciao, ti ricordi di me? Ciao, ci ripensi ogni tanto a me? A me che sono un po' pazzo e stasera ripenso di nuovo a noi, a noi, a noi. Ricordo che qualcuno cantava, che qualcuno cantava, cantava, cantava a bocca chiusa. Ed io ero sull'autostrada, bloccato dal traffico, e il mio pensiero andava a te. A te che sei l'unica stellina, a te che sei l'unica stellina di questo cielo, di questo mio cielo che ancora oggi sa di te. Quanto tempo è passato da quella volta che tu non mi rispondevi, ed io ero preoccupato come se mi mancasse già qualcosa di te. Ciao, splendido amore mio, tu te lo ricordi quando ci stringevamo forte e improvvisamente tutti quei problemi che avevamo intorno a noi scomparivano. A te che sei l'unica stellina, a te che sei l'unica stellina di questo cielo, di questo mio cielo che ancora oggi sa di te. Non ho fatto niente eppure mi faccio schifo. Stasera non sei più con me. Son troppo strano, non mi riconosco neanche più. Stasera non sei più con me. La vita passa, ma io e te restiamo ancora, ancora. Stasera non sei più con me. La vita passa, ma io e te restiamo ancora, ancora. Stasera non sei più con me. Stasera non sei più con me. La vita passa, ma io e te restiamo ancora, ancora. Stasera non sei più con me. La vita passa, ma io e te restiamo ancora, ancora. Sarò la vita passa, ma io e te restiamo. ora non sei più.